Il mondo è grigio, il mondo è blu. La mia tristezza resti tu. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Adesso non sorrido più. Perché non c'è, non c'è chi mai mi dirà ti amo. Perché non c'è, non c'è chi mai mi dirà ti amo. Il mondo è triste più di me. In questi giorni accanto a te. Il mondo è triste, c'è un perché. L'amore ha abbandonato te. E non c'è più, non c'è chi mai mi dirà ti amo. E non c'è più, non c'è. La mia tristezza resti tu.